Jaco, beaucoup plein à roi. Merci, Jaco. Zing, boka. Hasla. In donc, couplein et vera cara, zing. Aïe, quoi, maïo? Tidik fanaf, on y nose, on y nose, on y nose. Mas, quoi, facazo? Hek, maman, télé. Hey! Yeah, Black Nadia. Vas-y, qu'on la blende. Si metti vol, va tu con lo tuo vino. Sarne che na tocco na piazza lo. Fama fide, tu sarmi tu ve. Amma giurate na cajo di giudì. Ser smis sarà spoti, e ma na tamza. Ma tua zinia la za. Ma tua za zilleta. Les nu tranquille. Eh no, ma è mandu che me mandam sati e dize. Eh mandam tanda, ma tua zinia la za. Ma tua sta zinia va. Zei ala sa met. Samu la vada camera tikini ne. E fa easy, sa vidin fuona ca. E ala no, problem doze. Non voto, a Milan po' qua. Fase rei da noi un po' di San Echidio. Mia ragazza sare, ma non batti un lutia. Fontenga piana, sarà nella zispli. Ma c'era sare, vas-y, mama plein. Sare, manambati uno tiana. Fontenga piana, sarandenga zispli. Ma sare, mior corco uno tiana. Fontenga piana, sarandenga zispli. Please.